Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. www.askthebenny.com. Every day will be like a holiday. Ogni giorno sarà come una vacanza quando la mia baby Coli tornerà a casa. Spoiler, probabilmente non ci tornerà a casa. Bentornati così. Abbiamo una baby? No, non ce l'abbiamo una baby. Io immagino, proietto su William Bell. Spero che la sua baby sia tornata a casa. Okay. Bentornati così. Bentornato Pierino. Sono felice che siamo un'altra volta qua. È bello essere di nuovo qui in diretta, Battito Madre, siamo live da Exalge in diretta su astralbene.com e su Radio Exalge. Che strano, che bello fare un mensile che non ti dà modo di riabituarti a fare radio. Perché qui siamo ogni volta a partire da mezz'ora da prima della diretta, un po', almeno io parlo per me, con un po' di adrenalina, un po' di... È giusto. Di quella giusta agitazione che poi probabilmente ci fa dare quel quid in più. Ma poi in è bello, siamo un po' zingari, ci dobbiamo arrangiare. Oggi siamo nella parte bar dell'associazione Alge. Senza cuffie, per cui è come parlare tra di noi, esatto, però con un microfono davanti. Noi speriamo che nella diretta vada tutto bene. Anzi, se c'è qualche problema, vi prego scrivetecelo. Che puntata è oggi? È una puntata emozionante. Una puntata molto emozionale, emozionante. Proveremo a non piangere, anche se nella playlist abbiamo cercato di bilanciare il positivo e il negativo, l'alto e il basso. Ma prima ancora, i ringraziamenti e i saluti non di circostanza ma di rito, perché sono sentiti e sono intanto da Star Bene che ci dà lo spazio virtuale per fare la radio, e a Battito e a Exalge che ci dà lo spazio fisico per poi venire qui, stare insieme e parlare di Black Music, che è la mia cosa preferita nella vita. Non la Black Music, parlare di Black Music. Anche parlare ti piace tanto. Porca brava. E va bene, me la prendo, perché probabilmente evidentemente è vero. Ma prima ancora, allora, questa è una puntata, parleremo di Rhythm and Blues e di Soul, che insomma avremo modo di capire bene che cosa significano queste due parole. Ma prima ancora, qua c'è scritto greeting, saluti, ciao ciao. Oh, è di nuovo Battito Madre, il nostro cavallo di battaglia. E abbiamo inaugurato la volta scorsa questa cosa che forse è carino continuare, cioè che prima ancora di addentrarci nel vivo della puntata parliamo magari di qualche cosa di black music related che sia successo o a noi o nel mondo. Che cosa è successo in questo mese? A parte che non mi sono fatto la barba, non mi sono tagliato i capelli, infatti fortunatamente non è radiovisione, ma possiamo stare qui un po' tra di noi come... c'è solo la nostra voce, ecco, e solo le orecchie sono impegnate. Ma che cosa è successo in questo mese di Black Music Related? Secondo me la notizia, Coli, e soprattutto per chi si occupa di sound system, chi si occupa di sound system e di reggae, molto probabilmente il 90% già lo saprà, la notizia del mese è viene da Londra e riguarda Channel One, perché settimana scorsa Ras Kaleb ha annunciato che lascia Channel One Sound System. Per chi non si occupa di Sound System, ecco, bravo, volevo dare l'appoggino. Grazie, hai ragione. Channel One Sound System è un sound system storico londinese, attivo io credo da almeno 40 anni, uno dei principali animatori di della festa storica che è il Notting Hill Carnival, che si fa tutti gli anni tra fine agosto e inizio settembre, una manifestazione dell'orgoglio caraibico a Londra. Insomma, Ras Kaleb, per questioni proprio puramente religiose e di morale religiosa, ha deciso di lasciare Channel One Sound System. E questo non lo voglio raccontare semplicemente per gossip, ma perché secondo me è una cosa che ci dice molto anche di quello di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate, cioè che nei generi di black music succedono diciamo la sorte di chi la fa non è dovuta solo puramente alla musica, ma ci sono tantissimi altri fattori che sono morali, spirituali, religiosi. Nei motivi di questo abbandono di Ras Kaleb, Channel One Sound System, noi non vogliamo qui entrare, anche perché non ci sono notizie certe, ma solo beef Sound System di Facebook e sentito dire, e a noi non piace. Per cui intanto diciamo è successo questo, la notizia di Black Music del mese per Piero è questa. Grazie Pierino. E dunque, quindi abbiamo, diciamo che chi dovrà ascoltare per la prima volta, anzi andrà ad ascoltare per la prima volta il Channel One Sound System, verrà a meno, saprà, di quello che effettivamente è stato il Channel One Sound System. Esatto, Ras Kaleb, storico MC di Channel One Sound System, non sarà peggiore, perché ovviamente nel giro di Channel One ci sono tante persone, tanti artisti e tanti MC, ma Ras Kaleb era un po' quello storico. È un'altra figura che se ne va. Channel One arriva in Italia domenica 30 aprile a Torino con Ramon Giuda, per cui era già bookato così, non si sentirà l'assenza di Ras Kaleb. Andate a cercare l'evento online, domenica 30 aprile a Torino c'è Channel One Sound System con Ecotronics, un evento della Madonna targato Jazz Refund. E insomma, ci siamo già messi alle spalle la prima piccolissima parte della puntata, il primo piccolissimo spezzone. È il momento di entrare nel vivo di questa puntata, in cui parleremo di R&B e di soul nello specifico, ma in generale di black music, perché questo è Battito Madre. E allora direi, Coli, come da tradizione, le due parole sul pezzo le diciamo dopo. Intanto No, voglio farlo subito. Ok, voglio farlo subito, perfetto. Perché in verità c'è poco da dire. Questo pezzo l'ho scelto perché sono andato su Wikipedia e ho cercato Top Charts 1950. E c'è una bella sezione, perché divide una cosa interessante che poi affronteremo dopo. C'è la charts della radio e la charts dei jukebox. Lo sapevi questo? Questa è una cosa che so perché mi hai detto tu, perché ed è divertente. Perché hai studiato prima della puntata. No, perché ha studiato Coli e poi mi ha detto. E vabbè, e niente, quindi adesso facciamo un piccolo salto nel passato. Questo singolo è stato registrato il 25 febbraio del 1949. Si chiama I Almost Lost My Mind ed è scritto da Ivory Joe Hunter. Adesso andremo ad ascoltare la versione di Nat King Cole e del suo trio Listen This. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. my baby. I almost lost my mind when I lost my baby. I almost lost my mind. My head is in a spin since she left me behind. A million people, I can't tell who I meet. I pass a million people, I can't tell who I meet. 'Cause my eyes are full of tears. Where can my baby be? He went to the gypsy and had his fortune read. Yes, I did, yes, I did. He went to see a gypsy. She told me some bad news. She said your baby has quit you. This time she's gone for good. When I lost my baby, I almost lost my mind. When I lost my baby, I almost lost my mind. My head is in a spin since she left me behind. I Almost Lost My Mind, la cover, la chiamiamo cover, la chiamiamo remake, non so come la chiamiamo, però di Nat King Cole Trio, di questa hit di Ivory Joe Hunter, registrata e rilasciata nel 49, che noi abbiamo messo in playlist perché, l'ha appena detto Coni, perché è uscita tipo tra due giorni, ma nel 1949 l'ho scelta per questo. Tra tre giorni. Sì, l'ho scelta proprio per questo motivo. E che è stata prima in classifica per tutto l'anno 1950 nella categoria entrambe, jukebox e radio. Ah certo, però nelle classifiche di jukebox, nella classifica delle radio, sotto la categoria R&B. Sì. E adesso andiamo a dire che cosa vuol dire. Sì, sì, sì. Perché intanto abbiamo bisogno di un piccolo intanto volevo dire recap. Che comunque già queste due canzoni un po' ci hanno messo nell'ottica di quella che sarà la puntata di stasera, no? Una puntata calda, una puntata, cioè, si sente un po' questo spostamento urbano, ma si sente soprattutto una cosa che si voleva trasmettere, magari con questi due pezzi, anche un po' quel sentimento di club, di posto di raccolta, cose che non abbiamo mai trattato, cose nuove anzi, cose diverse da quelle che abbiamo affrontato fino ad oggi. Esatto, finora forse, anzi sicuramente non era ancora successo, ma oggi cominciamo a parlare di musica che si ballava. Infatti senza dubbio questo terzo episodio di Battito Madre, mentre noi siamo tornati in diretta su A Star Bene, su Radio Ex Alge, questo terzo episodio di Battito Madre è forse il più difficile che abbiamo dovuto preparare finora, perché noi abbiamo una playlist piena di pezzi che alla fine abbiamo dovuto tener fuori, ma insomma andiamo giù direttamente nel cuore di questa puntata, perché un po' di accenni ci vuole. Un mese fa noi eravamo rimasti, avevamo parlato di blues, per cui eravamo rimasti diciamo dalle parti del Mississippi, cominciando però ad accennare alle sue tante evoluzioni. Anche se comunque ci eravamo spostati di poco, o meglio solo da una parte, cioè a nord eravamo arrivati a Chicago a sentire il Chicago Blues, che avevamo detto molto più urbano, incalzante, c'erano delle cose che si sentiva essere molto specifiche di quel tipo di evoluzione lì del blues. Ma se ad esempio noi ci fossimo spostati verso sud, ad esempio in Louisiana, e non è uno stato a caso perché New Orleans è in Louisiana ed è una città che custodisce tantissima parte della storia della black music, avremmo incontrato delle cose simili ma diverse. Sempre evoluzioni del blues, sempre se vogliamo in chiave di BPM più alti, però ad esempio lì sono entrati i fiati, un pianoforte più presente e più incalzante, diciamo. Insomma, nascevano o nasce quel genere musicale che poi si è chiamato ragtime. Ragtime è un termine che è stato usato per la prima volta nel 1897, veniva suonato dalle ragtime bands. Per capire velocemente di cosa stiamo parlando, leggiamo intanto due righe di un critico musicale statunitense che si chiama Rupert Hughes e scriveva nel 1899: i neri chiamano ragging il loro modo di danzare battendo i piedi, e rag la danza. Rag tra l'altro si traduce con straccio, per cui immaginiamo come muovevano i piedi, no? Li trascinavano, ma era una danza molto naturale, se vogliamo, poco impostata. È una danza accompagnata con il battito delle mani e dei piedi. Nella musica ragtime le figurazioni del banjo sono molto evidenti, e la divisione di una delle due battute in note brevi, cioè, no? Si può far risalire al battito delle mani, esattamente questo. Dunque, andiamo ad ascoltare 30 secondi di questa cosa che si chiamava ragtime. Sentiamo Scott Joplin, questo è un rag original. Insomma, questo è original rag dell'uomo che si chiamava Scott Joplin ed era è per capire di cosa stiamo parlando. Questo è ragtime. Beh, intanto c'è stata una bella evoluzione. Siamo passati dalle corde inchiodate alle travi dei porticati a un pianoforte suonato come si deve, con la mano destra e la mano sinistra, che fanno due cose diverse. Sì, sì, un'impostazione musicale anche più magari occidentale, anzi sicuramente più occidentale come genere. E quindi questo, cioè, vuol dire che... Cosa vuol dire? A cosa porta questa cosa qua? A cosa porta questa cosa qua? A qualcosa di cui noi non parleremo questa sera, ma di cui sicuramente avremo modo di parlare a Battito Madre. Capiremo bene come, perché è un argomento molto delicato. Non lo so, io su questo so dei dubbi. Hai dei dubbi, te li risolverò. Ma intanto dal ragtime nasce il jazz, di cui appunto qui non parleremo ora, ma ci basti dire appunto, come abbiamo appena detto, quel blues che abbiamo finito di ascoltare un mese fa. Le voci blues, quel sentimento blues che era che si trascinavano dietro, eccetera, accompagnato. Sì, si è accompagnato da una musica che si è un po' raffinata, possiamo dire. Abbiamo detto più spazio al pianoforte e ritmi più complessi. Se noi andiamo ad aprire i manuali jazz, cioè la parola sincopato probabilmente è la parola più presente. Okay. E insomma, è arrivato il jazz. Per riassumere, a sud stiamo dicendo che è nato il jazz. Il jazz. E insomma, del Mississippi, da dove eravamo, eccetera, spostandoci più in giù, invece che a nord, lì nasce questo genere musicale che è purtroppo. Purtroppo, perché chi solo studia probabilmente non ne uscirà mai vivo, però. E purtroppo per chi ne deve parlare, perché è qualcosa di cui è molto difficile parlare. Noi troveremo il modo migliore. Ma la cosa che ci interessa, perché non stiamo parlando di jazz, non stiamo parlando di ragtime, è che se noi andiamo a prendere questo tipo di primo nucleo di jazz, quindi più strumentale, abbiamo sentito non c'è voce, mentre è sparita la voce che sentivamo nei blues. È vero, è vero, è vero. Più strumentale, più da intrattenimento. Se questo lo andiamo a fondere con quel blues originario, per cui pochi strumenti, ritmi bassi, accordi minori, sostanzialmente, per farla semplice, prendiamo queste due cose, le mettiamo insieme e questo lo possiamo chiamare R&B, Rhythm and Blues. Sbaglio? No, sono sbaglio. Molto vago, ma forse non in esatto. No, forse avevo sbagliato io prima a dire che era una usciva il jazz con le voci blues e il pianoforte, ma hai detto giusto tu adesso. esce finalmente Rhythm and Blues. Allora, molto rapidamente, nel 48 succede che questa etichetta, e già è la prima volta che parliamo di etichette a battito madre, fondamentale, l'etichetta RCA Victor cercava di vendere la black music sotto il nome di Blues and the Rhythm, e questo ha dato là, perché l'anno successivo Jerry Wexler, che scriveva per Billboard, che pensate era già all'epoca una rivista influente, e lui è ancora adesso 70 anni dopo, poteva parlare di questa musica, lui per la prima volta, dice, chiamandola Rhythm and Blues. E allora, senza troppo indugiare ancora, andiamo a sentirci un pezzo che è di poco successivo, di una persona, di un artista che non ha bisogno di introduzioni, come ci è già successo a Battito Madre tantissime volte nelle scorse puntate. Vuoi dirlo dire adesso, sì, fratello? Va sì, bene, perché dici, dopo, dai, tu preferisci dopo? No, non preferisco niente, mi sembra che mi venga più naturale, ma se tu vuoi dire, dici. Ok, dici, figlio mio. Dicio. Allora, siamo per sentire I Got a Woman, pezzo che conoscono tutti. Conosciamo tutti. Atlantic Records, e è stato definito come una fusione tra il gospel e qualcosa di più frenetico, qualcosa di più incalzato, quindi indiavolato, quindi diverso da quello che dovrebbe fare il gospel e quindi religioso, eccetera. Quindi questa cosa qua già subito è stata criticata, ovviamente, perché la musica è fatta anche di critiche inaccettabili, persone che l'accettano e che non l'accettano. Possiamo dire un'altra cosa, è stata la prima hit ufficiale di Ray Charles. E ancora oggi alle radio questo cazzo di pezzo spinge forte. E come se spinge forte, senti qua. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. She's there to love me both day and night, never grumbles or fusses, always treats me right, never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. She's my baby, don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over time. That's good to me. That's good to me. Esatto, senti come mi fa il verso. L'uomo che chiamiamo Ray Charles, la sua prima hit, I Got a Woman, è del 1954. Oh yeah, abbiamo già nominato un paio di date, abbiamo già detto R&B, abbiamo già detto Rhythm and Blues. Dobbiamo già fare una pausa, perché credo che stiamo incontrando una difficoltà simile a quella che avevamo incontrato nella pilota, cioè quella di definire e distinguere. Quella volta là, cioè a fine novembre, Questa difficoltà era dovuta al fatto che noi dicevamo di voler parlare di black music, per cui un oggetto molto molto generale. In questo caso è una difficoltà che è un po' diversa e ha a che fare con il fatto che ormai siamo arrivati a tempi che, per quanto ci sembrano lontani per i primi anni 40, però sono molto vicini. È modernità. Negli anni 40 e 50, soprattutto negli Stati Uniti, le evoluzioni, le cose succedevano a un ritmo frenetico rapidissimo. Posso dare una piccola Per favore, fallo. Un accennino. Tra l'altro, proprio perché hai parlato di anni, di evoluzioni, eccetera, ci sta, è giusto secondo me sottolineare il fatto che, per dare un contesto magari storico e tecnico a tutto quanto, stiamo parlando del dopoguerra e quindi stiamo parlando di innovazioni portate dalla guerra nel campo delle comunicazioni, eccetera. Sì, sì, anche proprio a livello tecnologico. Tecnologico, tecnico, che prima erano lontane anni luce. La puntata scorsa stavamo parlando di registrazioni fatte sul campo, che vabbè, era già una cosa fuori di testa. Con macchine che pesavano quintali. Esatto. E siamo arrivati finalmente, grazie, forse una delle, anzi l'unica cosa buona che può aver portato la guerra è stata proprio l'innovamento tecnologico per quanto riguarda l'arte, che vuol dire musica in questo caso. E cosa succede nel 1948, dopo che è arrivato il nastro magnetico in Italia, è nato l'LP. Caspita, 33 giri. E siamo proprio in questi anni qua, non è... quindi vuol dire che nascono gli studi di registrazione, vuol dire che il pubblico si abitua alla musica registrata. Vuol dire che la musica comincia per la prima volta a poter essere distribuita fisicamente a costi, diciamo, sostenibili o comunque molto inferiori a quello che a quanto succedesse prima. Esattamente. Grazie che hai detto questa cosa, perché è perfetta con quello che andiamo a dire nell'arco di questa puntata. Ne ho portate altre, poi non l'ho detto, quando ci siamo organizzati non te l'ho detto, ma ne ho portate. Sono ancora più contento, così ci sarà una reazione genuina in diretta. Però mentre siamo tornati in diretta su astarbene.com, su Radio Exalge, io vi ricordo che potete parlarci. Se entrate nel canale Telegram di Astarbene, voi ci scrivete e noi leggiamo i vostri insulti. I vostri insulti o i vostri complimenti, insomma, starà a voi. Dunque, abbiamo suonato un pezzo che è del 54. Avevamo appena finito di parlare del 49-50. Sono passati 5 anni, eppure nella black music e nell'R&B era già successo tanto, stava già diventando altro. Per cui andiamo con calma, andiamo con ordine. Appena questa musica, che chiamiamo R&B, negli anni 40 è apparsa nelle proprie prime forme, quando ancora non veniva chiamato così, si veniva descritta così, e noi abbiamo ci siamo incollati un virgolettato in inglese. Questa musica veniva descritta come più grintosa del blues intriso di jazz dell'era del boogie. Per cui c'è il boogie, abbiamo sentito qualcosa di un po' swingato, se vogliamo, molto più ballabile, più grintoso, e così intanto veniva descritta. Poi uno stile urbano, rocking, di musica basata sul jazz, per cui già non jazz, ma che viene da là in modo urbano e molto ritmato, con un beat insistente e pesante. Veniva descritta così, e anzi, la cosa che ci interessa molto, perché la dice lunga, potremmo dire solo questo termine, veniva chiamata a volte jump blues. Sì, direi. Perfetto. Che è stato il primo termine, no? Che la contraddistinta finalmente come quasi un genere a sé stante, diverso dal blues, quindi jump blues. Un blues che si salta, un blues che si balla, ed è qui che vogliamo venire, perché questa, l'abbiamo già detto e lo ripetiamo, per la prima volta a Battito Madre stiamo parlando di musica che si balla non in modo tradizionale, naturale, ma che si balla in luoghi che sono adibiti ad ascoltare e ballare la musica. Questo è fondamentale per gli sviluppi successivi. Dunque, chiudiamo dicendo questo, che fino a questo momento però la black music, l'R&B, il blues, il jump blues era musica ascoltata solo dai neri, era musica nera per i neri. E non diciamo altro. E al momento non diciamo altro, perché io direi che lanciamo un pezzo che si chiama Saturday Night Fish Fry, mm-hmm. che originariamente era di un uomo che si chiamava Louis Jordan, ma di cui andiamo invece ad ascoltare una versione di un uomo che abbiamo già ascoltato a Battito Madre, perché è un bluesman leggendario, si chiama B.B. King, e questa è Saturday Night Fish Fry. Listen this. If you ever been down to New Orleans, then you can understand just what I mean. All through the week it's quiet as a mouse, but on a Saturday night they go from house to house. You don't have to pay the usual admission if you're a cook, waiter, or a good musician. So if you happen to be just passing by, stop in at the Saturday night fish fry. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffle and shuffle until the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffle and shuffle until the break of dawn. Now my buddy and me was on the main stem, fooling around, just me and him. We decided we could use a little something to eat, so we went to a house on Rampart Street. We knocked on the door and it opened with ease, and the lush little miss said, come in please. Before we could even bat an eye, we was right in the middle of a big fish fry. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. Now the folks was having the time of their life, and Sam was jiving Jimmy's wife. Over in the corner was a beat-up brand being played by a big fat piano man. Some of the chicks wore expensive frocks, some of them had on Bobby socks, but everybody was nice and hot at this particular Saturday night fish fry. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. Now the women were screaming, jumping and yelling. The bottles was flying and the fish was smelling. Way up above all the noise we made, somebody hollered, you better get out of here, this was a raid. I didn't know we was breaking the law till somebody reached over and hit me on the jaw. They had us blocked off from the front to the back. They was putting them in the wagon like potatoes in a sack. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. I knew I could get away if I had a chance, but I was shaking like I had the St. Vitus stance. So I tried to crawl under a bathtub when the policeman said, where you going now, bub? Now they got us all out like a house of fire, put us all in that black morale. Now they might have B.B. King, Saturday Night Fish Fry, quel pezzo che B.B. King ha registrato e ha uscito negli anni 60, ma in realtà l'originale era di Louis Jordan, e si chiamava appunto Saturday Night Fish Fry, ed è uscito nel 49 e l'abbiamo suonato perché quel pezzo là è nel 49 è stato nella top 5 tutto l'anno, sì, oltre nella tutto, classifica. Oltretutto mi sono segnato che questo pezzo qua è stato il primo definito tra i pezzi jump blues come la prima canzone rock and roll, caro Piero. Oh, allora come ma sempre non da qualcuno a caso, dalla Rock and Roll Hall of Fame, che non chiedermi cos'è, ma credo che sia un'istituzione che tratta di rock and roll music, e quindi stiamo parlando del primo pezzo riconosciuto da qualcuno che ne capisce rock and roll. Come rock and roll. Oh, allora adesso stiamo ancora andando ad addentrarci ulteriormente dentro questo groviglio di generi musicali di cui parliamo, di cui parleremo in questo episodio, perché si chiama Rhythm Blues and Soul, ma in realtà appunto abbiamo già parlato di ragtime, abbiamo parlato di jazz, e adesso stiamo arrivando al rock and roll. E perché? No, non è vero, no. Cioè ci siamo arrivati al rock and roll, ma non lo so. Siamo arrivati, ma no, non ne parleremo, però va nominato, perché sennò non capiamo bene di cosa stiamo parlando. Allora, parlando di Rhythm and Blues, Perché il 49 è un anno così fondamentale? Perché abbiamo detto, per la prima volta è stato usato il termine rhythm and blues, e non solo dai giornali, nei giornali da Jerry Wexler che scriveva su Billboard, ma ufficialmente nella categoria, certo, sempre di Billboard, ma era una rivista molto influente che poi appunto ha fatto atterrare questo termine, questa categoria, proprio nella considerazione delle categorie popolari. E la categoria che prima si chiamava, ed era categoria di black music, si chiamava Harlem Hip Parade, dal 49 in poi si chiamava rhythm and blues. Allora è lì che nasce questo genere, che forse non è un genere, ma di nuovo è un grandissimo contenitore di cose diverse, no? Cose che hai detto, ma sì, mezzo di cui prima non abbiamo mai parlato e affrontato, finalmente la radio, quindi la questione della musica, l'aspetto economico, comincia ad esistere, e quindi è un fattore in più, è un fattore in più nello sviluppo della musica. Assolutamente, cioè, nel senso, dirompente, se non ci fosse la radio probabilmente non si sarebbe potuta sviluppare la musica, capito? Quindi anche l'aspetto fondamentale che hanno i DJ delle radio gli anni, perché è il mercato a una certa, no? Una cosa che poi ho letto, mi ricordo, è che ci sono radio per neri e per bianchi, quindi anche soltanto il fatto che poi ci fossero bianchi che attraverso la radio potessero raggiungere, quindi ascoltare la musica nera, perché la radio ovviamente era a disposizione di tutti, questo permette alla black music, all'R&B, effettivamente di fiorire, germogliare, fare qualsiasi cosa. Cioè, il bisogno di questa musica di essere venduta ha fatto sì che questa musica si sviluppasse in un modo oppure nell'altro, invece che nell'altro, e che noi oggi ne parliamo in un modo invece che nell'altro. Noi la chiamiamo rhythm and blues, che era un termine che è stato inventato per dare una categoria per poterla vendere. All'epoca era ieri, ma in realtà nel fine anni 40 e all'inizio anni 50 quella nuova generazione di teenagers bianchi ha cominciato a ricevere la black music. Ma insomma, stavamo parlando però del rock and roll, per dire come c'entra in questa storia e come in realtà lo lasciamo un po' da parte. Quindi leggiamo i titoli di pezzi degli anni 50, sono tutti frutti Long Tall Sides, no? Leggiamo nomi come stata Elvis Presley, Chuck Berry. E allora un artista che si chiama Fats Domino dice questo nel 57: what they call rock, quello che chiamano rock and roll adesso, è rhythm and blues. Io l'ho suonato per 15 anni in New Orleans, e Rolling Stone dice è una frase molto valida, perché effettivamente R&B, rock and roll, non si tratta di altro che non la musica nera popolare, fine anni 40, inizio anni 50, semplicemente. Per cui dire R&B, dire rock and roll a una certa lì vuol dire esattamente la stessa cosa. E come nota così di colore, leggiamo dei report dell'epoca che dice it was dangerous, lots of kids got hurt. Esatto, bravo. A divertire, non lo diciamo, ma sì, forse stiamo un po' un casino. Allora leggiamo, poi non sono iper verificate queste cose, però leggiamo in Annapolis tra 50.000 e 70.000 persone provare ad assistere a un concerto sold out, il cui il limite sold out era 8.000 posti. 50.000, 70.000 persone volevano andare a vedere questo concerto e le strade sono state intasate per più di 7 ore. Insomma, è stato un fenomeno, il primo forse fenomeno globale, massa, la società di massa. L'hai scritto, questo è rock and roll. Cazzo, è vero. Esattamente, non è per niente. È esattamente questo. Però di rock and roll noi adesso non ci vogliamo occupare, perché Battito Madre è principalmente e solamente un programma di black music, e nonostante abbiamo appena detto rock and roll e black music, per gli sviluppi che ha avuto successivamente diventa molto complicato parlare di rock and roll come di black music. Bisognerebbe continuamente correggersi e fare un po' dei disclaimer, per cui noi al momento e forse per sempre il rock and roll lo stiamo accantonando, perché in questa puntata ci interessa R&B e soul. E l'abbiamo appena detto qual è il passo decisivo per poter parlare di soul. Abbiamo parlato di etichette, abbiamo parlato di commercializzazione della musica, no? Dunque, rock and roll e R&B erano entrati in un momento in cui si stava sviluppando il mercato musicale, e anzi avevano aiutato proprio a formare il mercato musicale della musica nera per i neri e per i bianchi. Dunque, vuol dire che questi generi musicali di cui noi stiamo parlando hanno cominciato per la prima volta ad essere sottoposti alle regole e ai modi dell'industria musicale, della musica popolare pop. Perché popolare e pop sono la stessa cosa, noi suonano come due cose diverse, ma sono la stessa identica cosa. Per cui, se quelle regole a cui sottostavano rock and roll e R&B, noi adesso andiamo ad applicarle a una musica un po' più diversa, che invece appunto di essere ragtime e di essere jazz è più blues e più gospel, il risultato è uguale soul. È esattamente questo, il soul è un gospel, è un blues che si comporta secondo i modi della musica pop. E si sente, insomma, si sente che viene da là, perché nel soul si sente tanto jazz, per cui vuol dire anche tanti accordi maggiori, vuol dire tanto pianoforte. Ho parlato di trombe, di fiati, certo, per quello era fondamentale la Louisiana, New Orleans, perché giù là in quegli anni c'erano le big bands, c'erano delle sezioni di fiati di 5, 7, 10 elementi, e poi appunto questo negli anni 50, 60, 70. Tutto ciò, quello di quegli anni della registrazione, ha portato. La registrazione Big Bands, che effettivamente riempivano i locali. Ah, ho capito dove stai andando. Fare musica e le riducono, che è una cosa che poi costruisce anche il cervello, un po' più forte. Perché pagare 4 musicisti costa la metà di pagare 8. E di nuovo, l'influenza dell'industria musicale sullo sviluppo della musica è qui che sta arrivando. È negli anni 40 che vediamo quest'altro fattore esterno entrare al centro del fatto artistico e creativo e cambiarlo completamente. Coli, purtroppo in questa puntata piace molto parlare anche a te, per cui non ci sei tu come al solito che mi acchiappi per il colletto e mi fermi, ma è arrivato il momento di suonarsi un altro pezzo, sì. Perché abbiamo appena parlato di soul, io non voglio parlare di soul senza suonarmi un pezzo di quest'uomo qui, e adesso sì che ne parliamo dopo, perché okay. Mister, sentiamo Otis Redding, Pain in My Heart. Me cold, oh, where can my baby be? Lord, no one knows. Pain in my heart just won't let me sleep. Where can my baby be? Lord, where can she be? Come back, come come back, baby. A little pain in my heart just won't let me be. Wake up restless nights, Lord, and I can't even sleep. Love me, baby, will I get enough? Oh. Pain in my heart, little pain in my heart. Stop this little pain in my heart. Stop this little pain in my heart. Someone stop this pain. Otis Redding, Pain in My Heart. E come si sente lo stacco proprio musicale tra quello che abbiamo. Scusa, la traccia precedente era B.B. King, vero? Sì, sì, era B.B. King, sì, siamo nel Saturday 64, Night Fish eh? Fry. E invece questo era Otis Redding. La differenza di anni è davvero poca, ah. Eppure, mamma mia, quanto si sente la differenza proprio di generi. Album di debutto, tra l'altro. Primo giusto, cioè, primo album. Questa album era di Otis Pain in My Heart, title track del primo album di Otis Redding, anno 64. 64. Sì. E lui, come dicevo, cioè, visto per giusto per sempre ricollegarsi un po' a quel contesto un po' più contesto naturale che stanno vivendo in quel momento le persone. Questo qua, questo artista qua arrivava da un tour nell'America del Sud in cui giravano i locali di striptease, nightclub, i peggiori bar di Caracas. I peggiori, praticamente i peggiori bar di Caracas. Però cazzo c'avevano Otis. Però avevano il soul di Otis Redding che... che cosa c'è di blues nel soul di Otis Redding? Forse... A parte gli accordi minori, e questa è una cosa che forse va un po' fuori il tema di questa puntata, ma in realtà ci sta molto dentro, ma è una cosa che mi chiedo io. Io credo che Otis abbia proprio semplicemente un modo di usare la voce, che è blues. Lui non canta, lui piange, si lamenta e dice pain in my heart, won't leave me alone, won't let me be. Questo è chiaramente blues, però, abbiamo appena detto, un blues che deve essere venduto, e quindi soul, e quindi ibridato con i modi e le regole dell'industria musicale. Di cos'è che stiamo parlando? Stiamo parlando di cose molto diverse da quello di cui abbiamo parlato nelle scorse due puntate, perché ovviamente passa il tempo e ci sono delle evoluzioni molto rapide. L'R&B, prima ancora, è stato il primo genere che abbiamo incontrato in cui dentro il nome del genere ci sia un riferimento, anche se magari un po' di traverso, però la musica, si parla di ritmo. Invece il blues era un sentimento, il gospel è il Vangelo, work song era l'utilizzo che veniva fatto della musica, no? Invece R&B dice rhythm and blues, e questo ti dice che per la prima volta la musica ha cominciato a guardare e pensare a se stessa. I musicisti hanno cominciato a percepirsi come musicisti e non come uomini, o meglio, certo come uomini, ma c'era questa sovrastruttura del musicista. Che altro dire se non ribadire che appunto questa etichetta, questa categoria di soul, come prima ancora, quanti anni prima? 6, 7, 10 massimo, il termine R&B è stata inventata da appartenenti, rappresentanti dell'industry, per due motivi sostanzialmente, Coli. Cioè, uno è una semplificazione per poter parlare di un oggetto senza fraintendersi e capendo tutti di cosa si sta parlando, senza perdersi dei pezzi. Ma soprattutto due, per mettere tutta questa musica che era black music e che aveva tante sfaccettature diverse in quegli anni, come abbiamo appena capito, metterla tutta sotto una categoria e quindi poterla vendere. Certo. E negli anni 50 poterla riconoscere, poterla... Sì, vabbè, diciamo che il fine di fondo effettivamente era la vendita, perché stiamo parlando ormai di etichette discografiche. Certo, di mercato musicale, industria musicale. Ed etichette. E come si vendevano questi dischi? Si chiamavano Race Records. E race non nel senso di corsa, ma nel senso di razza. Cioè, come si vende ai bianchi la musica di neri? Dicendogli che è musica di neri, no? E un po', come si può dire, com'è quella parola là? Non lo so. Vabbè, mi sta un po' esotica, esoticizzandola un po', capito? Sì, esatto, poi comunque esoticizzandola. Stiamo anche parlando sempre di un periodo storico in cui il dopoguerra, comunque c'è, gli Stati Uniti d'America, non è che... Visto che gli Stati Uniti d'America erano popolati da gente afroamericana, non c'erano soldati afroamericani a combattere. Oh, capito? E quindi c'è stato anche un po' una sorta, pian piano le cose hanno iniziato. Quindi è vero, è come dici tu, dividere. Però dopo la guerra c'è stato anche un po' un senso di, cioè gli stati del nord soprattutto hanno iniziato ad accettare le comunità nere. Cioè c'è stata sensibilizzazione e quindi... Perché anche... una persona nera è stata in trincea con me? Quello è sì, stato. Sì, sì, sì, è quello, probabilmente è stato quello, probabilmente sono state altre cose, però finalmente si può dire che neri e bianchi quantomeno convivevano e non c'erano più segregazione e c'erano ancora, era il razzismo, però a quantomeno nell'industria si stava cercando di ammorbidire un po' questi temi. E anzi, chissà, io non... Chissà chi è che può quantificare l'effetto della musica nella sconfitta, no? A un certo tipo di razzismo, che poi sistemico, lo sappiamo, esiste ancora soprattutto negli Stati Uniti, ma nella cultura popolare io credo che in termini proprio di quotidianità del mio vicino di casa, il fatto di che a me venga venduta e mi piaccia la musica loro, tra virgolette, perché era loro, allora avvicina moltissimo, no? E dunque, per chiudere anche questo spezzone, a fine anni 50 c'è un evento che per la storia della musica soul, della musica nera, è fondamentale. Cioè viene fondata un'etichetta che ha preso il soprannome di Hitsville, e la dice lunghissima, che ha dato il proprio nome a un preciso stile di soul music, e si chiama Motown Records, di cui adesso non vogliamo dire altro se non che ci permette di risalire un'altra volta insieme a lei il Mississippi, perché è stata fondata da un signore che si chiamava Gordy di cognome, la cui famiglia si è trasferita da Georgia Sud a Detroit Nord, e lì nel 59 ha fondato Motown Records, di cui adesso andiamo a sentire il primissimo singolo. Sì. Di cui, Coli, vuoi parlare adesso? Vabbè, visto che me lo chiedi, sì. Stiamo parlando del gruppo The Miracles. La canzone si chiama Bad Girl. L'anno è 1959. E niente, $800 a quell'epoca bastavano per fondare un'etichetta discografica, che è diventata la cosa probabilmente più importante per ciò che riguarda la black music. E quindi hit that shit. She's not a bad girl because she made me see how love could be. But she's a bad girl because she wants to be free. Bye. The Miracles, Bad Girl è il primo singolo che Motown Records abbia mai rilasciato ed è dell'anno 1959, anno in cui è stata fondata ovviamente Motown Records e un po' tutto l'universo che gira intorno a Motown Records, perché c'era anche Giobete, ora non so bene come si pronunci, ma Giobete è una società di edizioni. Vabbè, se parliamo di universo allora dobbiamo dire anche quei due piccoli nomi che hanno contraddistinto l'etichetta e che hanno l'etichetta ha favorito a lanciare. Chi sono? Sentiamo. I Jackson 5. Ah certo, i Jackson 5, ma io ci volevo arrivare dopo. Ma ci arriviamo dopo, no, non c'è problema. Marvin Gaye, allora, ne metto un altro lì. Marvin Gaye. Certo, Marvin Gaye. Esatto, no. Ci sono tutti. E, volevamo però dire due cose su Motown, fondata da un uomo che si chiamava Berry Gordy Jr. Stringiamo. Berry Gordy Jr., la cui famiglia si trasferì dalla Georgia a Detroit negli anni 50, in cui a Detroit, cioè... Ah, certo, perché Motown? A Detroit c'erano le fabbriche della Ford, Detroit era chiamata Motortown, per cui Gordy... Sì, Motor City, certo. Gordy ha semplicemente contratto ed è diventato Motown Records, uno dei primi e di più successo black owned businesses della storia degli Stati Uniti, e che anzi c'è, appunto, ripeto, c'è uno stile di soul music che si chiama Motown Soul, che è testimone dell'iconicità, della legacy, dell'eredità di questa etichetta discografica. Ci sono un paio di cose interessanti, cioè la prima è che c'è qualcuno che dice che la grande folgorazione di Gordy sia avvenuta in un club in cui veniva suonato ragtime, in cui veniva suonato R&B, per cui ci piace qui a Battito Madre dire dell'effetto della musica suonata e ballata dal vivo, no? Sui tutti gli sviluppi successivi. Quali sono stati i fattori che hanno determinato questo grande successo di Motown? Come diceva Coli, dopo la Seconda Guerra Mondiale ci sono state tante possibilità e la musica più diffusa negli Stati Uniti era il big band swing, che però cominciava a diventare vecchiotta, e il jazz, soprattutto nei suoi stili più urbani, perché appunto poteva essere ballato, aveva cominciato ad essere più popolare. E poi appunto hanno cominciato ad essere molto popolate certe parti delle città e molto frequentate soprattutto certe parti delle città che chiamavano ghetto. Che mi ero dimenticato appunto di dire, visto che hai proprio giusto appunto citato i ghetti, che comunque alla fine degli anni 40, quindi con la fine della guerra eccetera, c'è stato un rimescolamento della popolazione. Quindi quelli che erano prima magari i ceti sociali bianchi e più alti si spostavano al di fuori delle città, mentre invece le popolazioni afroamericane si ritrovavano ad essere dentro, quindi parte integrante della città. Questo è abbastanza determinante nella fondazione di un genere, ma soprattutto di un genere legato a una città come Motown. A una città come Detroit. Cos'altro è interessante secondo me? Che ad esempio le major, le etichette più grosse che c'erano negli Stati Uniti all'epoca, cioè leggiamo Columbia, Capitol e Decca, solo Decca era forse un po' strizzava l'occhio all'R&B e al soul, gli altri due se ne fregavano. Etichette che hai nominato, se non sbaglio, comunque non di race music, non nate per... Esattamente, esatto. Se ne stavano bellamente fregando. E perché è interessante? Perché forse è un po' quello che ciclicamente succede, che le major cominciano a perdere un po' della loro capacità di intercettare le cose sul nascere e cominciano a poter solo comprare, no? Sì, comprare l'azienda, l'etichetta di chi lavora bene, sì, e di chi invece è in grado di intercettare le cose sul nascere. Motown è stata negli anni 60, perché è stata fondata fino agli anni 50, la prima tra tante etichette indipendenti che hanno fatto la storia della black music. Hai fatto due nomi tu, Cori, che Marvin Gaye, Stevie Wonder, abbiamo sentito Otis Redding e non sentiremo Sam Cooke, che sono altri due grandissimi nomi del soul, che invece abbiamo scoperto non aver mai registrato per Motown, insomma, un'altra cosa che forse vale la pena citare è il primo singolo di Motown che ha venduto 1 milione di copie. Ah, bello. E tu dici, nella storia di un'etichetta, quanto dopo succede? Avrai bisogno di un po' di... E invece no, perché nel 1960, un anno dopo la nascita, ancora i Miracles, che abbiamo sentito prima, il pezzo si chiama Shop Around, hanno venduto 1 milione di dischi. E parliamo solo di copie fisiche, non esistono stream. Vuol dire che 1 milione di dischi comprati sono tanti, tanti, sono tantissimi. Ma ci sarebbero anche tanti nomi da fare. C'è, cioè, ad esempio Diana Ross, che faceva parte delle Supremes, gruppo femminile, tutt'oggi il gruppo femminile più di successo di sempre. Non reggono le Spice Girls, raga, contro le Supremes. Diana Ross, che era la lead singer, poi è andata avanti ad avere una carriera da attrice, insomma, tutto nello show business. Insomma, negli anni 60 Motown Records, Detroit era il place to be, poi ovviamente ha aperto succursali a Los Angeles, se non sbaglio, ovviamente si è presa un po' tutto quello che era il suo. E insomma, in questa puntata forse dovremmo avere 5 ore di radio, sì, per continuare a parlare di tutto quello che vorremmo parlare, per suonarci tutti i pezzi che ci eravamo selezionati. Infatti abbiamo una playlist di 20-25 pezzi che sono quelli che abbiamo scartato. Ma insomma, Motown Records, abbiamo sentito prima Otis Redding, che in realtà con Motown non ha mai registrato. Abbiamo sentito la prima release di Motown. È il momento, a battito madre, di un po' chiudere il cerchio, sì, suonarci delle cose più recenti. E anche qui c'è qualcosa di molto interessante, perché dire, una cosa che comunque credo che abbiamo fatto è stata quella di far capire che questa musica qua, a differenza delle cose che avevamo trattato prima, ovviamente, è entrata davvero a far parte della popular music. Cioè, è stata... E comunque deriva da quello di cui parlavamo prima. Quindi quello che stiamo trattando oggi è il primo genere, praticamente, che ha influito completamente in quella che è la musica che ascoltiamo tutt'oggi. Quindi è per questo che Pierino stava dicendo, basta con le cose vecchie, iniziamo ad sentire un po' di R&B della nostra epoca. Mettiamola. Lo diciamo noi a battito madre, per andare a scoprire la black music come la sostanza di cui è fatta qua oggi quasi tutta la musica che ascoltiamo. Per cui adesso Coli ci porta un pezzo che viene dal 2016, e la cosa interessante è che non si sentirà tutta questa differenza per la prima volta a battito madre tra quello che ci siamo suonati a inizio puntata, a metà puntata e a fine puntata. Perché? Di nuovo, per la prima volta dopo Tito Madre, stiamo parlando di generi che sono ancora vivi, che vengono ancora prodotti, che vengono ancora cantati, che vengono ancora ascoltati, studiati, reinterpretati. Cioè, siamo proprio... Non credo sia finita qua, anzi. Non è assolutamente finita qua, e anzi, tra l'altro Rihanna ha appena fatto lo show al Super Bowl a proposito di black music e di R&B. E insomma, senti qua, insomma, Adrian Young, senti come veniva fatta nel 2016, e senti quanto ci piace l'R&B, il soul, la black music. Zero, leave me to the sky. seems so clear. Winston is here. Adrian Young, Winter is here, un pezzo che è del 2016 e che appunto ci siamo suonati proprio per dire come il soul, questo è un pezzo proprio completamente soul, sia ancora vivissimo, ed è un disco dell'etichetta Linear Labs. Non lo so, te lo sei segnato tu, lo vuoi dire tu, a me mi interessava. No, no, se tu hai tirato fuori qualcosa della Linear Labs, che tra l'altro è di Adrian Young. Esatto, fondata da Adrian Young, non lo so come si pronunci, perché c'è una E, perché c'è una E alla fine, e insomma, va bene. No, la cosa che mi interessa è proprio che lui cita come quasi come ragione per aver fondato un'etichetta la grandissima influenza, il grandissimo fascino della musica soul su vinile degli anni 60 e 70. Cioè è un'etichetta di Los Angeles che ha come missione quella di riportare adesso il suono che si sentiva. Esattamente. Là. Beh, allora poi siamo in anni in cui la musica viene campionata al 100%, quindi lui nasce proprio come compositore, ma che campionava cose, e appunto questo suo rimando, come hai detto tu, alla musica da vinile, alla musica vecchia, tra virgolette, soul music, è evidente. Questo l'ha portato a diventare un compositore, arrangiatore e produttore che oggi è strariconosciuto. Ha fatto colonne sonore per film, ha lavorato con artisti veramente, cioè tra i più forti, Ghostface Killa e altri che adesso non mi ricordo, perdonatemi. Ma addirittura, cioè, sono arrivati a definire questo album, che tra l'altro consiglio ovviamente l'ascolto di tutte le altre tracce, Something About April. Bravissimo, due, perché questo qua è il secondo, tra virgolette, capitolo di una cosa che aveva fatto qualche anno precedente. Questa cosa molto poetica, scusa, perché mi sono ricordato, cioè la title track, credo, Something About April. Sì, c'è. Something About April makes me want to fall in your arms, cioè è una cosa che è tanto blues, è tanto proprio, sì, tanto da un sentimento. C'è qualcosa in aprile che mi fa voglia di cadere nelle tue braccia, no. E bello, non lo so, io lo trovo molto molto bello, poetico. È ciò di cui stiamo esattamente parlando. E come dicevo prima, l'hanno, come hai detto tu, come hai già annunciato tu, questo suo interesse per il soul è stato, hanno definito questo album capace di riuscire a sintetizzare l'avvicinamento e l'accostamento tra American soul, dark American soul, quello degli anni 60-70, con la classic European cinema music. Cioè, capito, siamo proprio un infatti, scusa, oggi. A proposito di una band che, se gli chiedi, io ho letto e lo dicono loro, se gli chiedi che genere fai, loro rispondono cinematic funk, e sono italiani e si chiamano Calibro 35. C'è un feat con i Calibro in questo album qui, si chiama Something About April 2 con Adrian Young. Ciao. Abbiamo chiuso un cerchio, ma anzi, per andare oltre, per riaprire un altro che andremo a richiudere, dico che nel team di Motown, per tornare là, c'erano delle persone che sentivano e che avevano talmente tanto la black music e quel tipo di black music di allora, cioè l'R&B e il soul, dentro, era talmente istintivo, capivano talmente quello che funzionava, quello che non funzionava, talmente tanto, che era proprio un team di autori che nel 69 hanno fatto il capolavoro di far firmare un contratto a un gruppo che al tempo si chiamava Jackson 5 per Motown Records. Da allora la black music non sarebbe mai più stata la stessa, perché arriviamo all'inizio della storia di una delle prime superstar della musica pop, che ha scritto la storia della musica pop come black music, ed è proprio rivoluzionario, no? È vero. Ho parlato prima di Rihanna, no? Non ci sarebbe Rihanna al Super Bowl senza Michael Jackson negli anni 70 e 80. Vogliamo fare altri due nomi di artisti che potete ascoltare se volete sentire dell'R&B contemporanea? C'è Beyoncé, ovviamente, c'è Keith Ranada, c'è Steve Lacy. Bravissimo. Questo. Sì, esatto, giusto per come ciò di cui stavamo parlando prima, è che l'R&B è la musica di oggi che amiamo, che ci piace ascoltare, che riesce ancora a darci e a trasmettere quei sentimenti di cui parlava il blues, che non riusciamo a trovare delle chiave moderna parte. Però perché c'è la ritmica, c'è il basso, c'è tutto il resto che accompagnano quello che è il sentimento vero e che le parole probabilmente non riuscirebbero a trasmettere. Tra l'altro, proprio per questo motivo, il prossimo pezzo che abbiamo portato si chiama Heady, che non mi ricordo cosa diavolo significa Heady in inglese, però era una cosa che c'entrava. Detto ciò, l'album è dei Sundur, se lo dico bene. È una parola islandese che significa separato. È un album del 2000 che è uscito nel 2021. Ovviamente tutto scritto. Cioè, capito, Colli ci stava facendo ascoltare roba dell'anno scorso, sì, e stiamo parlando. Abbiamo parlato fino a un quarto d'ora fa. Abbiamo parlato degli anni 60, anzi, fino a 5 minuti fa. Ma ti dirò di più, caro amico Piero. Stiamo parlando di un anno, il 2020, perché è uscito nel 2021, che è stato un anno di merda per tutti. È stato un anno in cui tra l'altro mi passano dalla regia Heady, che si traduce in potente, intossicato. Vabbè, direi che ci può stare abbastanza. Scusa se ti ho... Sul serio? Ok. È un po' Heady, io mi immagino mezzo fatto. Ok, mezzo fatto. Ok, questo qua è il titolo della canzone. Forse non l'avevo specificato prima. L'album, però, come vi dicevo prima, è stato fatto in un momento in cui il fottuto mondo si è fermato, ragazzi. Cioè, c'è stata la pandemia, c'è stata la separazione, c'è stata un sacco di difficoltà che poche volte nella storia, probabilmente in momenti di guerra e di carestie e di problemi, ci sono stati a livello globale. Questo Sundur, dall'islandese, significa separato. Ed è un progetto che nasce da due artisti. Una cantante che partecipa in quasi tutti i pezzi dell'album, e da un produttore che si chiama DJ Platurn, che appunto è islandese, e per questo probabilmente la scelta del nome. E questo volevo dire prima, cioè che con la musica questi sono riusciti. E tra l'altro è un album che ogni volta che ho l'opportunità di ascoltare è una figata. Perché? Cosa fa? Cioè, con la sua musica traduce veramente sentimenti e cose che con le parole non si riesce a parlare, anche tra amici, tra familiari, eccetera. Però messi giù su una fottuta ritmica, delle parole, una linea di basso, escono cose che trasmettono quel sentimento lì e quella cosa che si stava vivendo lì in quel momento. Sì, con la linea di basso, con il sentimento sulla musica, su una base si può dire forse qualsiasi cosa. Che bello, Coli, che ci fai chiudere così un bellissimo viaggio in questa parte di Black Music che chiamiamo R&B e Soul. Piccolo spoiler, il mese prossimo, che cadrà di nuovo il 22, mercoledì 22 marzo, andremo proprio a scoprire quali sono stati gli effetti di questa musica di cui abbiamo parlato adesso e di quella un po' precedente, diciamo anni 40 e 50, su un'altra zona del mondo, cioè i Caraibi. Insomma, andremo a parlare di Calypso, Skareg, Rocksteady, e mi sentirò molto a casa. Detto questo, possiamo andare a sentirci questo pezzo di Sundur o Sundur che ci ha appena annunciato Coli. Dopodiché andremo in sigla. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato, se ci avete ascoltato, per esserci venuti a trovare. Long live a Star Bene, long live Exage, long live Black Music. Che altro dire? Qua insieme a noi. Big appiamo Tony, che è direttamente il nostro boy da Roma, è venuto a darci il suo supporto. Si è preso un treno solo per venire a vedere Battito Madre in diretta. Fatelo Mister Coli, Mister Coli, andiamo a sentire Heady, mezzo fatto, Sundur. Ciao, a tra un mese. Find it. What we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fuck. Do. Nigga. Fuck. To do. www.askthebenny.com.